Whoa! Rest up, bitch! Torno con contento. C'ho il polline denso. E cattino un tronco mi diede da bere, mentre due pampogne, un angelo a strisce e un cervo volante, e non ricordo più.